Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Vergiss. Sono le 5.30 del mattino ed un nuvolone grigi sopra una 013 iniziano ad illuminarsi di luce diurna. Beatrice, prima di far entrare i tre refrattarius in cucina, chiude bene le tende e accende una piccola luce sopra i fornelli. Dopo 5 minuti i quattro ragazzi sono seduti a tavola a bere un caffè. La ragazza argentina inizia a raccontare quello che è accaduto nell'appartamento di Alni ed i tre restano ad ascoltare in silenzio. Sui loro visi, nonostante la preoccupazione, inizia a fiorire un leggero sorriso ascoltando il massacro avvenuto. Beh, finché si ammazzano tra di loro ci fanno solo un favore e ci sollevano da qualche fatica. Questa affermazione di Aghi riesce a rompere per un attimo il momento di serietà e di interrompere per pochi istanti il racconto di Beatrice. La ragazza, cercando di ricordare quanto più particolari possibili, continua nel racconto di quella mattinata. Mark, Alni e Aghi ascoltano e col passare del tempo iniziano ad incupirsi. Intanto all'ospedale, sotto la vigilanza di un folto numero di Talspach, inizia il trasloco degli intossicati sotto lo sguardo preoccupato dei parenti. Le versioni dei vigili del fuoco e dei due dottori, si fatti avvenuti sul tetto del condominio, combaciano alla perfezione e sono state messe in allarme anche le due torri di comando dei Talspach. Una decina di elicotteri si alzano in volo dal porto della NA 013 in direzione dell'area nord. Su uno di essi c'è addirittura Navig, che ancora non ha visto da vicino i danni provocati dall'esplosione alla centrale. Una decina di auto di pattuglia di Talspach escono dalla Torre M ed, aprendosi in una sorta di raggiera, si dividono nelle varie zone della metropoli. Il loro compito è avvisare la popolazione di evitare, se è possibile, di uscire dalle proprie case se non per recarsi al lavoro e acquistare alimenti sufficienti per almeno una settimana. Chi esce di casa deve farlo munito di mascherina antigas perché c'è pericolo di intossicazione. Ovviamente lo stato generale dei Talspach evita di dire quello che realmente sta accadendo a pochi chilometri dal centro della città, per non creare il panico generale. Nel frattempo il buio della notte ha ceduto alle prime luci dell'alba e gli elicotteri stanno già sorvolando l'area nord da qualche minuto. Navig, con un'aria stufata, si accende il suo sigaro. Coglioni psicopatici, dovrebbero fargli i controlli antidroga prima di metterli sugli elicotteri, handicappati del cazzo. Dopodiché aspira in solo colpo un terzo di sigaro, sputando fuori una quantità di fumo che in un attimo invade tutta la cabina dell'elicottero. Appena il fumo del sigaro si dilata, il pilota, con gli occhi spalancati, il corpo che sembra andare oltre il parabrezza dell'elicottero, si lascia andare in un'esclamazione che non lascia presagire nulla di buono. Oh santo Dio! E poi silenzio. Navig, con il suo corpo flaccido di 100 kg e passa, ha un sussulto ed inizia a guardare nella stessa direzione dove sta guardando il pilota. Abbassati a distanza di sicurezza, voglio guardare da vicino cosa sta accadendo. Nel giro di pochi secondi l'elicottero è ad un'altezza di una quindicina di metri dal suolo. Altri elicotteri girano più alti intorno a quello dove si trova Navig. Il generale guarda con gli occhi spalancati e non pronuncia una sola parola. Il pilota trema e riesce a tenere in modo precario l'equilibrio dell'elicottero. Sotto di loro c'è l'inferno salito in superficie. Orde di dannati che si ritegano brandelli di carne e di cadaveri che sono per strada. Alcuni in gruppo assaltano con torce fatte con qualsiasi oggetto i capannoni industriali che si trovano accanto al termovalorizzatore esploso. Altri ancora incendiano le auto ed iniziano a formare alcune barricate sulla strada principale. Sembrano quasi gesti di chi inizia una rivolta, ma a farla non sono questa volta i refrattarius, ma dei veri e propri zombie. Navig dà ordine di risalire in quota con l'elicottero. Tocca andare subito alle torri e mandare un contingente di Talspach qui immediatamente, prima che questi oltrepassano l'area nord. Per il momento possiamo stare tranquilli perché il fuoco ha creato una barriera e questi non so cosa siano, non riusciranno ad andare oltre. Poi con un gesto della mano fa segno agli altri elicotteri di seguirlo alla base. Intanto i tre refrattarius sono usciti dall'appartamento di Beatrice e si dirigono verso quello di Alni, sempre cercando di dare il meno possibile nell'occhio. Alni rompe con un colpo di piede di porco il lucchetto che è stato messo alla porta dai Talspach. Dentro è tutto sottosopra e ci sono ancora macchie di sangue dappertutto. Entrati in bagno notano che è l'unico posto dove non sia stato toccato nulla. Annie si dirige verso lo scaldabagno e lo sposto dal muro come fosse una porta. Poi fa il gesto ai suoi compagni di fare silenzio e infilarsi nella botola che è appena apparsa davanti agli occhi stupefatti di Mark e Raki. Ma non c'è tempo per restare meravigliati, si deve portare via tutto in fretta possibile, più fretta possibile. Beatrice intanto è appena entrata in un salone di un alto noleggio che si trova a poche decine di metri da casa. La ragazza si dirige all'ufficio e chiede un furgone da noleggiare per mezza giornata. I tre refractarius sono pronti, hanno imballato tutto come fossero scatoloni da trasloco. Annie resta nella botola e prende un'ultima valigia. Dentro ci sono vari vestiti, parrucche, barbe finte e cosmetici per il trucco. I tre si infilano le tute trafugate ad una ditta di corrieri e dopo essersi totalmente resi riconoscibili con il resto del travestimento iniziano a scendere i pacchi nel cortile del palazzo. Il tempo di scendere l'ultimo pacco e si sente il rumore di un furgone arrivare. È Beatrice che si ferma proprio davanti al portone. La ragazza strizza l'occhio ai tre e fa un salto dietro nel cassone per non farsi notare da qualche condomino. I tre refractarius caricano tutto sul furgone. Annie entra nel cassone e fa segno agli altri due di salire davanti e guidare molto tranquillamente, senza dare nell'occhio. Pochi istanti ed il furgone è già in cammino verso il Vesuvio. Oh. Allora, radiazione 12 maggio 2014, abbiamo iniziato come di consueto ogni lunedì con Nazaro 13. Ora diamo gli indirizzi utili. Prima ricordiamo che oggi è lunedì e quindi la diretta d'azione comprende non solo controinformazione ma soprattutto letture. Lettura che stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey già da un bel po', siamo arrivati già quasi a metà libro, penso che sia l'ultimo libro per quest'anno, anche perché penso ce lo trascineremo per giugno e almeno penso fino a metà luglio, e quindi poi dopo c'è la pausa estiva perché non si può stare nella cameretta con l'aria viziata, no, questo caldo. No, no. E quindi pausa forzata, no, perché si va in vacanza, non siamo gente da vacanze noi. Allora, gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@autistici.org per la mail, per chi vuole mandare comunicati, iniziative, scritti, materiale da distribuire tramite la pagina download gratuitamente, quindi di radiazione, dove potete scrivere qualche complimento ogni tanto, non mandare sempre a fare in culo, no, ultimamente anche sì, nemmeno i vaffanculo, quindi non lo so se qualcosa, tracce sì, qualcuno si sente accusato, qualche altro no. Allora, il sito invece è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricare il materiale attraverso la pagina download o ascoltare le dirette d'azione sia sui podcast nella categoria ascoltare le dirette d'azione o attraverso i flash player o il banner che trovate sulla home page di radiazione. Il flash player sta sempre, il banner lo trovate solamente quando c'è il giorno della diretta, dirette che vanno il lunedì e il venerdì dalle ore 17 alle ore non si sa, perché si sa quando si inizia, non si sa quando si finisce. Per fortuna non ci abbiamo obbligo, a parte qualche interruzione forzata, non è colpa nostra, però ogni tanto qualcuno si diverte, ci fa cadere la connessione, quindi tocca riavviare tutto. Quindi se per caso non ascoltate più niente, provate ad aggiornare la pagina oppure dateci il tempo che ce ne accorgiamo, riavviamo tutto e si riparte con la diretta. La radio trasmette su anarchia.net, il server messo a disposizione da compagno di Anarchist Library, che salutiamo. Ora ci ascoltiamo un brano di The Fall, Who Makes the Nazi, e poi dopo si torna qui e si inizia con prima con un breve riassunto delle puntate precedenti dei Sabotatori e poi dopo si inizia subito il nuovo capitolo. Who makes the Nazis? Who makes the Nazis? I'll tell you who makes the Nazis. All the holes, white holes, blue holes. Tonight you're old. Ask the king, hey, are you old? Who makes the Nazis? makes the Nazis? Just the worst time of the year for revolution. Così diceva Blixa Bargeld, cantante degli Einstürzende Neubauten, nella sonorizzazione di un'opera contemporanea di Heiner Müller, L'Hamlet Machine. Il tempo davvero sbagliato per iniziare una rivoluzione. Così non pensano i nostri quattro avventurieri, i nostri quattro banditi, assaltatori, come li vogliamo chiamare, che stiamo seguendo nelle vicende dei sabotatori. Dove siamo arrivati? Stiamo seguendo Doc e Bonnie, che sono due. Doc è un medico di Albuquerque nel centro degli Stati Uniti, Bonnie e la sua donna, che hanno conosciuto George Washington Haidak e John Seldon Smith, che sono invece due liberi battitori, chiamiamoli, due che fanno batteria da sé e che finora ci hanno accompagnato nei primi sabotaggi contro la costruzione di autostrade, contro l'industria petrolifera, contro la devastazione industriale che alla metà degli anni 70, tempo in cui è ambientato il romanzo che stiamo leggendo, si sviluppavano nelle zone centrali degli Stati Uniti. Come ripetiamo anche lunedì, non è un caso che questo libro si stia leggendo sulle frequenze di radiazioni, perché vi assicuriamo, non lo facciamo apposta, ma tanti degli argomenti toccati sono assolutamente vicini, affini e coerenti con tanti argomenti che la realtà della controinformazione ci porta a divulgare, a rendere cose pubbliche. È come un cronometro però assolutamente istintivo e istintuale, non c'è nessun pensiero, nessuna macchina che agisce nel mettere in collegamento le cose, questo ve lo possiamo assicurare. In ogni caso, queste avventure, eravamo arrivati appunto quando la banda si divide, Doc e Bonnie vanno da un lato, George Haidak e Seldon Smith vanno dall'altro. Haidak e Smith incontrano per la prima volta una cosiddetta squadra di soccorso e recupero, ovvero sia una posse, come erano chiamate durante il periodo del Selvaggio West, di vescovi mormoni, militanti reazionari, possidenti della zona, che si sostituiscono alla polizia e fanno sostanzialmente una banda paramilitare, come si dice oggi, alla ricerca di chi stava distruggendo le infrastrutture del profitto, dove tutti questi partecipanti alle squadre di soccorso e recupero avevano già investito dei soldi. Quindi un fenomeno molto americano, non solo americano, ma sicuramente di gente che affianca gli sbirri nella repressione, nella ricerca di chi in qualche modo e anche letteralmente nel caso del nostro romanzo, cerca di mettere sabbia nei motori. E adesso però arriviamo al momento in cui, dopo aver seguito appunto la sberleffo e fuga di George Idack e Seldon Smith della squadra di recupero e soccorso lasciata in mezzo nel deserto, adesso invece seguiamo dove sono andati a finire Doc e Bonnie, che per il momento vanno a fare delle spese. J.B. Harting & Sons Mine and Engineering Supplies. Il figlio più giovane di Hartung caricò DuPont Straight e DuPont Red Cross Extra sul fondo della nuova Buick Station Wagon di Idack. 10 casse incerate, sigillate e stampigliate, più detonatore, filo, miccia di sicurezza, spellafili e accendimiccia. Un carico dall'aspetto inquietante, stile, classe. «E che ci fai con tutta questa roba, Doc?» chiese il ragazzo. «I fuochi d'artificio», disse Doc firmando l'ultimo dei moduli federali. «La ranch, ma dici sul serio?» «Abbastanza!» Bonnie Abzug aggrottò le sopracciglia. «Abbiamo una concessione mineraria», disse. «Oh!» fece il ragazzo. 30 concessioni», corresse Doc. «Ho sentito che in Europa l'oro è salito a più di $6 al grammo. Intendete sfruttare le concessioni?» «Esatto», disse Doc. «E ora ficcati questo in bocca, in tasca, scusa, voglio dire». Il ragazzo diede un'occhiata alla banconota. «Ehi, grazie mille, Doc. Non è niente, ragazzo». «Tornerete ancora molto presto?» «Torneremo», disse Bonnie. «Piccolo moccioso ficcanaso», aggiunse mentre si allontanavano. «Ero già pronta a tirargliene uno sui denti». «Calma, stai calma, baby, è soltanto un ragazzino, soltanto un ragazzino. Ma hai visto che faccia piena di froncoli che c'ha? Scommetto che ha già la sifilide». «Potrebbe essere, in questo stato qui ce l'ha il 50% della popolazione e la metà di loro ha la gonorrea orale. In New Mexico dovremmo fissare un cartellino sul pene di ogni adolescente. Ragazze, esaminare attentamente prima di inserire in bocca». «Ma non essere volgare! Organi a bocca!» declamò Doc. «Spirocheti, gonococchi, treponema pallidium, ascolta, sifilis sive morbus gallicus». Un poema di tale Girolamo Fracastoro del 1530 circa. L'eroe di questa tragedia metrica pastorale era un pastore che si chiamava, non scherzo, Sifilus. E come molti pastori nutriva una passione per una del suo gregge, una pecora, di cui non ricordo il nome. «Amo la pecora in ogni modo», diceva Sifilus, infilando le sue zampe posteriori nei suoi coturni, poi il suo pseudopio nelle sue pudenda, e sviluppò rapidamente delle ulcere venere e poi delle lesioni. Morì orrendamente 30 anni dopo. Da qui l'origine della credenza comune che la sifilide cominciò con una scopata. «Vorrei qualcosa di più allegro», disse Bonnie. E Doc si mise a cantare. «I need no chance to remind me. Na na na na. Sembra che tu abbia l'ulcera alla laringe. Cancro alla gola. Nulla di allarmante. Quando ero un ragazzino volevo anch'io essere un pastore, ma ho scoperto però che le ragazze mi piacevano di più. Voglio un trasferimento. Io voglio un bacio. Ti costerà. Quanto? È un bel cono da Baskin Robbins con doppia pallina di fragola. Ti piacerebbe sapere qual è la mia fantasia sessuale segreta più perversa?» «No, affatto. Beh, vorrei sodomizzare una ragazza di Baskin Robbins mentre sta tirando su l'ultima paletta di cioccolato e nocciola prima di pranzo. Dottore, tu hai bisogno di un dottore. Ho bisogno di un drink. Un drink al giorno toglie lo strizzacervelli di torno. Che cosa c'è ancora nella lista?» «Beh, ce l'hai tu la lista, nel taschino della camicia». «Ah, già, è vero». Doc Sarvis studiava il foglietto. Bonnie guidava la macchina nel traffico intenso di Albuquerque. Il fumo del sigaro di lui fluttuava attraverso il finestrino aperto sul suo lato, mischiandosi all'inquinamento generale. Bracci del rotore, lesse. «Bosch and Eisman. 3 di ogni tipo. Li abbiamo, triboli anche. Controlla. Alluminio polverizzato 5 kg. Scaglie di ossido di ferro 5 kg. Polvere di magnesio, perossido di bario, Chief Tampax. Vai dall'alchimista. Non ne conosco nessuno. Dal farmacista prendi Paracelsus Way, tagli in Faustus Street a un mezzo isolato da Zosimus Square alla casa di Teofrastus Bombastus von Hohenheim. Dai, Doc, parla come mangi. Andremo da Walgreens. Dove il giorno di Santa Cecilia bruciarono il povero Giordano Bruno? Meglio la drogheria di Skag, e andarono da Skag, dove il dottore si prescrisse una supposta di termite, poi in un negozio di ferramenta per i metalli in scaglie e in polvere più di 40 litri di cherosene, per la storia dei cartelloni, quelli che incendiavano. La Station Wagon adesso era bella carica, straboccante di prodotti chimici. Pastiglie, pastiglie, cantava Haydak. Doc acquistò una rete mimetica da 6 metri per 9 al Bob's Bergen Burn, insieme ad altri articoli in lista e a una montagna di altre cose che si accorsero essere assolutamente indispensabili, come, ad esempio, un bastoncino di selce per accendere il fuoco nei giorni di pioggia, un paio di bretelle elastiche rosso fuoco per tenere sui pantaloni sformati di Doc, un grande cappello floscio di paglia del Guatemala per Bonnie e, poi, regali per Haydak Smith, un portalattine termico e un'armonica Hohner. Doc coprì il carico con la rete mimetica, poi andarono in un negozio di forniture per ingegneria e in uno di cianografie, dove acquistarono le mappe topografiche, che sono sempre fondamentali. È tutto? Scorsero due volte la lista. Beh, direi di sì, disse Doc. Beh, è arrivato Babbo Natale! Si ritirarono dal caldo e dalla luce fastidiosa del pomeriggio nella fresca atmosfera decadente di un bar ricoperto di vinile Naugheide. Anche le pareti erano ricoperte, era come un buon manicomio dei vecchi tempi con filo di fusione. Le candele tremolavano debolmente all'interno delle piccole palle rosse. Il gestore del bar indossava una giacca rossa e un farfallino nero. Alle 4 era mezzo pieno di avvocati, architetti, politici del consiglio comunale, esattamente il genere di posto che Bonnie detestava. Oh, God. questa era Time Tiffany con il brano Borderline che seguiva la prima parte del primo capitolo per oggi dei Sabotatori di Edward Debbie. Ora si passa alla controinformazione con un testo scritto da me proprio poco prima che iniziasse la diretta, in solidarietà con Gianluca e Adriano, che il 26 maggio affronteranno il processo. Allora, leggiamo il testo. Il prossimo 26 maggio a Roma si terrà il processo contro i compagni anarchici Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci. I due compagni sono accusati di 13 attacchi, di cui una buona parte rivendicati da Gianluca in un testo che ho cercato e ho pubblicato su questo sito. Poi sul sito di Radiazione, nell'articolo, trovate anche il link per trovare la rivendicazione di Gianluca. Quindi eviterei i piagnistei innocentisti che vogliono due poveri giovani compagni arrestati e accusati di bla bla bla. Sicuramente c'è da dire che la rivendicazione è arrivata solamente da Gianluca, che ha sottolineato che l'altro, tra l'altro, di essere l'unico responsabile degli attacchi, ma questo non toglie che prima di appioppare termini come innocenti o colpevoli si deve sempre aspettare il punto di vista dei compagni accusati e soprattutto rispettarlo. Per la prima volta in Italia dei compagni saranno processati in videoconferenza. Attraverso questo mezzuccio infame la magistratura pensa di mettere il culo al riparo in tribunale, immaginando una squallida aula riempita solamente da gente di merda come loro. In questo modo pensano di isolare i due compagni dai propri compagni, parenti e amici. In questo modo la magistratura pensa che la solidarietà venga a mancare nei confronti di Gianluca e Adriano. E allora, mentre loro si fanno tutta una serie di seghe mentali, sta a noi fargli pensare che si sbagliano e non di poco. Sta a noi far capire che un processo in telecamera non isolerà mai i compagni detenuti. Sta a noi fargli capire che possono arrestare chiunque di noi, ma la solidarietà non riusciranno mai ad arrestarla. Sta a noi far capire che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. E come la storia ci ricorda, qualsiasi dittatura è destinata a finire a testa in giù. Avete goduto ieri, ridete oggi, ma piangerete domani. Solidarietà e complicità con Gianluca e Adriano, solidarietà e complicità con Alfredo e Nicola, per l'azione diretta al fatto e distruttiva, Radioazione. E questo era il testo di solidarietà scritto da me poco prima di andare in diretta. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Ace Breaker con il brano Verrucht. E poi dopo si ritorna qui con la seconda parte del nuovo capitolo dei Sabotatori di Edward Debbie. Du sagst, dir geht's prächtig, das heißt, dir geht's schlecht. Ich bin unersättlich. deprimente, disse Bonnie Apzug. Ci facciamo una birretta fresca e scappiamo a casa prima dell'ora di punta. Tu non puoi andare a casa, devi essere al Medical Center alle 5. Ah, giusto, è vero, torniamo alla macelleria allora. Dottor Sarvis, il suo finto sdegno. Beh, a volte è proprio quello che penso, disse come scusandosi. A volte, cara ragazza, mi domando... Sì? Cos'è che ti domandi? E arrivò la cameriera con un abitino trasparente che sembrava quasi non esserci. Come sembrava quasi non esserci, una qualunque espressione sul suo viso e anche la sua voglia di lavorare in quel posto. Servì da bere e si volatilizzò mentre Doc la osservava partire. Quelle pallide cosce che adoro. Ah sì, disse Bonnie. Fecero tintinnare i bicchieri. Doc affondò lo sguardo negli occhi di Bonnie. Ti amo. Mentì. In quel momento la sua mente era lontana 6 metri, lontana 1 migliaio di chilometri. E allora che c'è di nuovo? Odio quelle locuzioni yiddish. Odio quelle dichiarazioni d'amore false. False, sì, false. Non stavi pensando a me quando l'hai detto. Probabilmente stavi pensando, ma solo il dio cane sa che cosa stavi pensando, ma sicuramente non a me. Bene, disse lui, litighiamo pure. È un modo delizioso di rilassare i nervi prima di una piccola meniscectomia. Io sono contenta di non essere una tua paziente. Anch'io. E mandò giù mezzo bicchiere del suo gin tonic. D'accordo, hai ragione, l'ho detto in modo formale, ma in ogni caso è vero, ti amo. Senza te intorno, io sarei un uomo solo e disperato. Hai detto bene intorno. Qualcuno che non ti faccia saltare gli appuntamenti e lavi i tuoi calzini puzzolenti, qualcuno che ti sgridi quando pisci nel lavandino e non ti stringa troppo la corda al collo quando scopi, qualcuno che ti faccia da autista in giro per la città e ti tenga la casa pulita prima e dopo e faccia la sua porca bella figura in piscina. Sposiamoci, disse allora Doc. Cosa c'è di male nello sposarsi? Sono stanca di farti da valletta. Pensi che tutto quello che voglio sia continuare a farlo in modo ufficiale? Doc Service si trovò spiazzato dall'ultima osservazione e sorseggiò con cautela quel che rimaneva del suo gin tonic. Beh, allora, dannazione, che cos'è che vuoi? Beh, io mica lo so. Ed è proprio quello che pensavo, disse Doc. Allora è meglio se taci. Ma non so che cosa, non voglio, aggiunse lei. Così fanno anche i maiali, madam. Che cosa c'è che non va nei maiali? A me piacciono i maiali. Io penso che tu sia innamorata di George. No, non quel maiale, grazie tante. Smith, meglio noto come il vecchio Seldom Seen, visto di rado. Questo mi sembra già un po' più plausibile. È un uomo dolce, mi piace, penso si comporti davvero molto bene con le donne, ma sembra sia felicemente sposato. Ne ha solo 3. Tu potresti proporti come moglie numero 4. Beh, preferirei io ad avere 4 mariti e visitarne uno al mese. Hai già 3 amanti, Heideck, Smith e il povero Sarvis, dottore in medicina, per non parlare dei cani, delle galline, di tutti gli sbandati liceali degenerati hippie che frequentano quegli igloo di plastica a vomito siti dove vivi. Ah. Ma quelli sono miei amici, non sono i miei amanti come li definisci tu, anche se l'immagino che tu questo faccia troppa fatica a capirlo. Se hanno l'uccello molle come la loro spina dorsale, posso capire perché non hanno lo status di amanti. Tu non sai niente di loro, ma li ho visti, cercano tutti di apparire diversi nello stesso modo, gli antropoidi androgini. Tutto quello che vogliono è poter seguire un loro stile di vita, cercano di tornare a qualcosa che abbiamo perduto tanto tempo fa. Ma non diventi mica un indiano perché ti infili una fascia in testa. Non entri in armonia con la natura perché sembri uno spinello che cammina. Beh, almeno non fanno male a nessuno. Penso che tu ne sia invidioso. Io sono stanco di persone che non vogliono fare del male. Sono stanco di smidollati passivi che non possono costruire o fare niente, tranne i bambini. Doc, tu mi sembri stanco. Lui ingobbì le spalle, aggrottò le sopracciglia e fece una sua imitazione di George V. Washington Heideck. Odio tutti, ringhiò. Bonnie sorrise al di sopra del suo bicchiere mezzo vuoto. Usciamo di qui, altrimenti farei tardi. Ma sì, andiamo. Doc allungò la mano, le prese il bicchiere e beve il resto del gin. Si alzarono per andare. Ah, è un'altra cosa. Cosa? Doc la tirò a sé. Io ti amo comunque. Queste sono le cose che mi piacciono davvero, disse. Le dichiarazioni d'amore ambivalenti. Sono anche ambidestro e accenno una dimostrazione. Oh Doc, non qui per l'amor del cielo. Che c'è qui? Là, non va. Vieni via! E lo trascinò fuori da quel manicomio ben imbottito su per le scale fino al marciapiede, quel bianco bagliore nel folle rombare del frenetico movimento di Albuquerque. A est le torri d'acciaio e vetro e alluminio si alzavano, le montagne, la tosta parete rocciosa delle Sandias, ora sezionate trasversalmente dalla teleferica e incoronate dalle guglie appuntite dei piloni delle antenne TV. Dove un tempo le pecore delle montagne pattugliavano le balze, ora i turisti giocavano come bambini sparando agli uccelli con le loro pistole d'aria compressa. Ad ovest, sul brullo orizzonte, i tre vulcani, da tempo inattivi, si innalzavano come verruche, raggrinziti, spuntati contro la caligine pomeridiana. Nel parcheggio la accarezzò dal cancello fino alla macchina. Dio, oggi hai le scalmane. Sono l'unicorno scalmanato dell'amore. Lo spinse in macchina nella gonfia station wagon e manovrò per uscire dal posteggio, puntando verso l'autostrada. Sulla strada, impigliati nel traffico, lei si lasciò accarezzare dalle sue mani grandi e delicate, che sembravano impegnate in una gara di destrezza. Comunque, quando raggiunsero l'arteria principale, lei gli allontanò la mano più in basso, quella tra le cosce, e pigiò sull'acceleratore. «Non adesso!» disse. Doc ritirò la sua mano con aria offesa. «Faremo tardi!» disse Bonnie. «È solo una meniscectomia», disse lui, «non è mica un arresto cardiaco. Cos'è un menisco di fronte a due amanti?» Lei rimase in silenzio. «Perché siamo ancora amanti, vero?» Al momento non era sicura. Un vago senso d'oppressione le invadeva la mente, una sensazione di cose assenti, perdute, da ritrovare. «L'altra notte eravamo amanti», le ricordò non senza gentilezza. «Sì, Doc», rispose lei finalmente. Doc si accese un altro sigaro attraverso il primo banco sfilacciato di fumo, espulso e poi sparso e modellato dai contorni del cruscotto del parabrezza. Egli contemplò sobriamente i bastioni della montagna oltre la cappa di smog della città. Bonnie appoggiò per un attimo la mano sul suo ginocchio, lo strizzò, poi la riportò sul volante mentre conduceva con scioltezza la grande automobile dentro e fuori la corrente del traffico, passando all'esterno corsia dopo corsia per poi tornare all'interno, sempre attenta a mantenere una certa distanza dal veicolo che la precedeva. Che Dio lo maledica, perché non si muove? O perché cazzo non va a sbattere? Come avrebbe detto Haydak, pensò. Doc non sarebbe arrivato in ritardo, ma lei aveva fretta, fretta, si rese conto di staccare da lui per un po'. Ma lui non restava in silenzio a lungo. «Guarda che traffico», commentò. «Ma guardali come rotolano sui loro pneumatici di gomma, nelle loro macchine entropiche da 2 tonnellate, inquinando l'aria che respiriamo, violentando la terra per portare in giro i loro grassi coloni americani indolenti. Il 6% della popolazione mondiale si sciruppa il 40% del petrolio mondiale. Porci!» strillò agitando il grande pugno verso gli automobilisti di passaggio. «E noi due allora?» chiese lei. «È proprio di noi che stavo parlando». Lo scaricò al Medical Center, reparto neochirurgia, all'ingresso del personale. Poi si avvirò veloce verso casa, strada, rampa e autostrada per l'igloo di plastica di Vomito City. Nel giro di 5 ore sarebbe dovuta tornare a riprendere il dottore. Avrebbe davvero dovuto regalare a quell'uomo una bicicletta, pensò, ma ovviamente avrebbe avuto anche problemi a parcheggiarla nel modo giusto, figuriamoci a pedalare con sicurezza in una via cittadina. Quando giunse a casa era tesa per lo sforzo della guida, entrò nella sua cupola e si fermò un minuto a guardarsi intorno. Sembrava tutto in ordine, silenzioso, a posto, sereno. Casa, dolce, casa. Il gatto le andò incontro con un leggero miagolio e le si strusciò contro la caviglia facendole fusa. Lei lo accarezzò per un po', poi si accese un bastoncino d'incenso, mise sul piatto un disco di Ravi Shankar, un raga serotino, e si sedette sul tappeto, incrociò le gambe stile loto e rimase a guardare il fonografo luccicante mentre il disco girava 33 giri e mezzo al minuto su un instancabile piano leggermente oscillante. Il sitar ronzava dalle casse acustiche collocate in basso e parecchio distanti l'una dall'altra in quella stanza senza angoli. Dalla sua posizione sul pavimento, l'interno della cupola appariva spazioso come un planetario. I grappoli cristallini dell'alta volta del soffitto brillavano come stelle. Attraverso le pareti in poliuretano, la luce solare del tardo pomeriggio, intensa e indiretta, riempiva la cupola di una soffice e diffusa luminescenza da cocaina. Lei richiuse gli occhi, lasciando che la luce radiante le irrorasse la mente. Il gatto restava immobile tra le sue gambe. Dall'esterno, ovattato dalle pareti, sentiva giungere un lontano mormoria, il pullulare dell'alveare irrequieto della città. Escluse gradualmente ogni suono, concentrandosi sulla sua realtà più interna. La città divenne irreale. Doc Sarves la osservava nella sua immobilità, anche se alla periferia della sua coscienza, come Kilroy al di là dello steccato, con il naso rosso e tutto il resto. Smise di pensare a lui, lo fece diventare nulla, niente, vuoto. Le ultime vibrazioni dell'autostrada morirono nei suoi nervi, passo dopo passo. Svuotò e compose la propria mente, rimuovendo una dopo l'altra tutte le immagini impresse della giornata: il giro a fare spese, il ragazzino furuncoloso, lo strano carico della station wagon di Doc, il modo in cui lui aveva squadrato le gambe della cameriera, il dialogare vacuo, la corsa all'ospedale, la sua massa di noccolata che scompariva in quei corridoi infiniti di sofferenza, il pelo del gatto tra le sue caviglie lisce, il suono del sider di Shanghai, l'odore dell'incenso. Tutto passò, sbiadì, danzò, dissolvendosi nel nulla mentre lei si concentrava su se stessa, i suoi segreti, il suo privato, le sue personali, prezzo $50, parole di meditazione. Ma una macchiolina, un'irritante macchiolina, cresceva come una perla minuta in un angolo di quella coscienza senza angoli, occhi chiusi, nervi immobili, cervello a riposo. Vedeva comunque un ciuffo di capelli schiariti dal sole, un paio di occhi verdi, brillanti, di mormone non osservante, un naso come il becco di un condor lanciare lampi verso di lei attraverso microonde telepatiche. Dietro il becco, su un lato, un motivo finemente reticolato di puntini danzanti formava l'immagine effimera ma reale di un vagabondo barbuto con gli occhi simili a due buchi gemelli fatti dalla pipì su un banco di neve che la fissavano. Bonnie aprì gli occhi. Il gatto si stirò pigramente. Lei osservò il disco che girava tranquillamente sul piatto appena arcuato, sentì il continuo languido, magnetico, vibrante, monotono e cantilenante lamento di Ravi Shankar e del suo zither hindù, accompagnato dal picchettio delle sue piccole mani marroni che rimbalzavano sul cuoio di un bongo Advaita Vedantista Shakti Yoga. Lui, il povero hindù, suona fino a non poterne più. Beh, merda, pensò Miss Abzug. Beh, Gesù Cristo e tutti gli apostoli, pensò. Si alzò, il gatto serpeggiò intorno alla sua gamba facendo le fusa, lei lo spedì con un calcio, ma non troppo forte, su una pila di cuscini. Porca troia, pensò Bonnie, io mi annoio. E le sue labbra si mossero. Voglio fare qualcosa, si disse in un sussurro del quieto ventre della cupola, ma non ci fu nessuna replica immediata. E allora, a voce alta, con un deciso tono di sfida, disse: è ora, cazzo, è ora di tornare al lavoro. parentesi erano Black Light Burns con Brian Coward. Ora si ripassa alla controinformazione, si va in Cile dove ci sono un po' di aggiornamenti sulla situazione di processi a carico dei vari compagni. Leggiamo il testo. Mercoledì 14 maggio alle ore 9 inizia il processo al tribunale di Puente Alto contro Victor Montoya Encina, che è detenuto da febbraio 2013 accusato di aver partecipato alla collocazione di un ordigno esplosivo alla stazione degli Sbira a Vizcachas. Il compagno rischia 6 anni di carcere per la legge antiterrorismo. Giovedì 15 maggio alle ore 10 al decimo tribunale di garanzia invece Metro Rondizzoni, ma questa è più una informazione per chi è del posto locale. Per il compagno Javier Sepulveda ci sarà il riesame per la revisione delle misure cautelari, istanza in cui verrà richiesto la revoca degli arresti preventivi avvenuto il 29 marzo in La Vittoria durante la commemorazione del giorno del giovane combattente. Ricordiamo che il 2 maggio è stata riformulata l'accusa per il compagno in attacco incendiario contro un carabiniero in servizio. Invece il 16 maggio il compagno Carlos Gutierrez Chidileo affronta l'udienza che vuole estendere la durata delle indagini portate avanti dal procuratore Riccardo Pegna. Questa udienza si terrà nel settimo tribunale di garanzia. Il compagno è accusato nel quadro giuridico repressivo chiamato Casa Security, in cui gli viene attribuita la partecipazione in 3 espropri bancari: Banco Santander ad Agustinas nel 2006, il Banco Santander a Valparaíso nel settembre 2007 e il Banco Security ad Agustinas nel 18 ottobre del 2007. Ricordiamo inoltre che Carlos è da quasi 5 mesi nella cárcel de máxima seguridad a resistere contro l'isolamento quotidiano di 21 ore di cella. Infine ripetiamo che già da più di un mese vanno avanti le udienze da lunedì a venerdì per il caso Security, dove Freddy, Marcello e Juan affrontano il circo giudiziario in presenza di 3 giudici che assomigliano più a dei procuratori e da un magistrato da parte dei querelanti, che sarebbero il Ministero degli Interni, il Banco Santander e i Carabineros, che in complicità con la stampa cercano di raggiungere una condanna a vita per i compagni. Le udienze sono pubbliche e si svolgono nell'edificio D del Tribunale di Rondizzoni, aula 102, dalle ore 9 alle ore 16. Sottolineiamo che questa settimana inizia a parlare la difesa, che cercherà di smontare le prove, per cui si avvicina alla fine del teatro giuridico. Perché tutte queste informazioni? Perché la solidarietà è un'arma che può far tremare i persecutori e i giudici, e perché si tratta di un atto d'amore che rivitalizza e dà sollievo ai nostri compagni. Usiamola. Che nessun compagno sia solo di fronte al potere. Javier, Vittorio, Carlos, Freddy, Marcello e Juan, noi siamo qui accanto a voi. Non dimentichiamo che Patamarra Sol si è arrivati quasi alla fine delle indagini e che resiste quotidianamente nel carcere di San Miguel. Monica Caballero e Francisco Solar, riducibili in Spagna. Anthony Meyer, che sconta la condanna nel carcere di alta sicurezza. Alejandro Solga, in custodia cautelare, è accusato di un espropriare una banca nel giugno del 2013. Ed ogni individualità affine e cosciente che oggi affronta con dignità e la prigione come conseguenza delle sue idee messe in pratica in ogni territorio, fino a distruggere l'ultimo baluardo della società carceraria, collettivo anticarcerario, quello di giustizia. E questa era la notizia che ci fa un po' un quadro generale sui fatti repressivi in Cile, che riguarda per lo più i compagni che sono detenuti in quella nazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Run Liver Zero con il brano Stroke, e poi dopo si ritorna qui con i Sabotatori di Edward Debbie. Yeah. In a world of just, in the wind you die. Walls are crumbling, close your eyes. Rise, in a world of just, in the wind you die. Walls are crumbling, close your eyes. I refractarios, come li chiamiamo noi, a radioazione, ritornano al lavoro. Sembrava più saggio lasciare lo stato dello Utah per un po'. Quando Smith ebbe completato il suo giro per le Henry Mountains, lui e Heideck lasciarono Hanksville di notte, diretti ad ovest, girando intorno al versante occidentale delle montagne e poi deviarono verso sud per una strada sterrata che costeggiava il Water Pocket Fold. Lì non viveva nessuno. Raggiunsero il Bar Pass e si arrampicarono per una quarantina di metri su per i tornanti fino alla vetta del Fold. A metà strada dalla sommità incrociarono un bulldozer Cat D7 incustodito e di proprietà del Dipartimento delle Autostrade, parcheggiato al lato della strada, e quindi si fermarono a rifocillarsi. Ci vollero pochi minuti. Il lavoro procedeva senza intoppi. Mentre Smith stava di vedetta in cima alla collina, Heideck eseguiva l'esercitazione perfezionata con Wash, aggiungendovi un ultimo tocco: prelevare carburante dal serbatoio e traversarlo in una tanica, rovesciare il carburante sul blocco motore, i cinguri e la cabina dell'operatore e infine appiccare il fuoco. Smith in verità non approvava del tutto l'ultimo passaggio. Serve giusto richiamare l'attenzione di qualche figlio di puttana su in cielo con il suo aeroplano, si lamentò, guardò verso l'alto. Le stelle amiche guardavano verso il basso, in particolare l'Orsa Maggiore. Una capsula spaziale stipata di astronauti e altro materiale riempitivo baluginò attraverso il campo di stelle, entrò nel cono d'ombra della Terra e scomparve. Un jet della linea Transworld Airlines, TWA, adesso non c'è più, Los Angeles-Chicago, solcò il cielo meridionale a 9.000 metri di altitudine, visibile soltanto grazie alle sue luci da crociera. A quell'ora della notte non c'era nessuno in giro a perdere tempo. La città più vicina era Boulder, Utah, 150 abitanti, 56 km ad ovest. Nessuno abitava più vicino. Ah, inoltre, continuò Smith, non è che serva molto tutto quello che stai facendo, perché è solo bruciare la vernice. Beh, merda! Boccheggiò Heideck, troppo eccitato per discutere. Merda, volevo solo, ma dai, una bella pulita alle cose. Pensiero da piromane. Dall'intenso bagliore della macchina moribonda in fase terminale giunse il botto, attutito di un'esplosione, seguito da un altro, una fontana di scintille e grumi di grasso in fiamme. Si sollevò nella notte. Smith fece spallucce. Andiamocene di qui. Attraversarono il villaggio di Boulder nel cuore della notte. I dormienti si adagiarono al rumore del furgone, ma nessuno li vide. Girarono a sud e seguirono la strada della catena montuosa tra le diramazioni del fiume Scalante. Scesero nel canyon, lo risalirono dalla parte più distante, tra le pallide cupole alte, una trentina di metri, di pietra arenaria con le caratteristiche stratificazioni incrociate. Le antiche dune, divenute rocce diversi anni prima, 8 km ad est della città di Escalante, Smith prese a sinistra la strada di Hole in the Rock. Ma dove stiamo andando? È una scorciatoia per Glen Canyon. Saliremo fino a trovarci nel mezzo del Kaiparovitz Plateau. Non sapevo nemmeno che ci fosse una strada lassù. Beh, forse strada è una parola grossa. Le luci delle torri di perforazione lampeggiavano a distanza attraverso l'immensità disabitata delle terrazze delle scalante. Di tanto in tanto, all'altezza di svincoli secondari, incrociavano i piccoli carrelli metallici che recavano nomi familiari come Conomo, Arco, Texaco, Gulf, Exxon, Cities, Service. I bastardi sono dappertutto, borbottò Hydak. Occupiamoci un po' di quelle torri. Lì ci sono degli uomini che lavorano, schiavi, che sono in piedi nel gelo delle 4 del mattino per garantirci l'olio e la benzina per questo furgone e che così ci permettono di dare il nostro contributo al sabotaggio della macchina bacata del pianeta. Mostra perlomeno un minimo di gratitudine. La luce dell'alba li colse mentre scivolavano in direzione sud-est sotto la facciata delle 50 Miles Cliff, Hole in the Rock. Era un vicolo cieco per i veicoli motorizzati, ma il loro tragitto proseguì su una pista di collegamento per jeep attraverso il plateau. Hydak scorse sulla strada dei geofoni. «Fermati!» Smith si fermò, inchiodò sul freno. Hydak saltò giù e divelse il geofono più vicino, raccogliendo il cavo che lo collegava ad una serie. I geofoni indicano un'attività di prospezione geologica, la ricerca di depositi minerari mediante l'analisi delle vibrazioni provocate da cariche esplosive piazzate alla base dei buchi di perforazione. Hydak assicurò il cavo, annodandolo al paraurti posteriore del furgone, e rimontò in cabina. Ci risiamo, le fiamme sul berretto le accenderemo anche noi. Ci risiamo, ci riproviamo, non ci abbandonate, ricollegatevi. Compagni, compagni affini. Ok. E aprì una birra. Cristo, una fame da lupi! Smith rimise in marcia l'automezzo alle loro spalle, mentre il cavo si tendeva, i geofoni cominciarono a staccarsi dal terreno e a correre dietro al furgone, danzando nella polvere. Decine di quei piccoli e costosi strumenti furono strappati prematuramente dalla terra. Mentre procedevano, il furgone ne abbatté ancora altri, l'intero lotto. Appena sarà sotto il sole, promise Smith, ci prepareremo qualcosa da mettere sotto i denti. Lascia solo che ci infiliamo nei boschi e ci togliamo da questo spazio aperto. Raggiunsero la pista per fuoristrada e svoltarono a destra in direzione sud verso le alte rupi. Hydak però vide qualcos'altro. Ferma, ferma! Smith fermò il furgone e di nuovo inchiodò controvoglia. Nella fredda alba azzurra osservarono con grande curiosità, attraverso un mezzo miglio di salvia, verso quella che sembrava una torre di perforazione non presidiata. Niente luci, nessun movimento, niente veicoli. Hydak cercò a tentoni il binocolo, lo trovò e studiò la scena. Seldom, ma lì non c'è nessuno, non c'è nessuno! Smith guardò ad est. Le nuvole da quella parte stavano prendendo una tonalità rosa salmone. George, siamo a cielo aperto, se viene qualcuno... Seldom, là c'è un lavoro da fare, non mi piace molto qui, non abbiamo uno straccio di copertura, ma è un nostro dovere! Il nostro primo dovere è quello di non farci beccare. Hydak riflette. Era vero. C'era della verità in quell'affermazione, ma è un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Guarda quell'affare. Una bella torre di perforazione tipo coltello a serramanico e non c'è nemmeno un'anima nel giro di 15 chilometri. Beh, può arrivare un'auto in qualsiasi momento. Seldom, io devo farlo. Scenderò qui e ci andrò a piedi. Tu porti il furgone in quel canyon dove non lo vedrà nessuno. Comincia pure a preparare la colazione, caffè a litri. Un'ora al massimo e sono da te. George, a piedi. Io sarò comunque più sicuro. Se arriva qualcuno mi nascondo nei cespugli della salvia e aspetto che cali la notte. Lasciami dei segnali al margine della strada così non perdo le tue deviazioni. e mi porterò dietro lo zaino. Beh, George, ma Cristo, maledizione, non ti preoccupare. E Haydak scese e prese il suo zaino con cibo, acqua, attrezzi, sacco a pelo, tutto impacchettato e pronto, e lo prese dal pianale del camion. Dal paraurti posteriore, guardando alle spalle, poteva vedere un mezzo miglio di geofoni del valore di $20,000 disposti a terra in attesa di essere piazzati. I geofoni e quel cavo, disse. Me ne occuperò io, disse Smith. Haydak si avviò in mezzo alla sabbia alta fino alla vita. Smith si allontanò con il camion, trascinandosi su per la strada l'attrezzatura della compagnia petrolifera. Una sottile nebbia di polvere rosa si sollevò nell'aria, galleggiando come oro filato in controluce. A metà strada dal suo obiettivo, Haydak riprese la strada camionabile che portava al sito di perforazione e cominciò ad aumentare l'andatura. Lo zaino, ben assicurato alle anche, era stanco, affamato, sovraccarico di birra, lo stomaco in disordine e la testa nel pallone, ma l'adrenalina e l'eccitazione e un alto e nobile scopo lo spingevano avanti. Il sito della trivellazione. Nessuno! Si arrampicò sulla passerella di acciaio che conduceva alla piattaforma. In un angolo della torre di perforazione c'era una rastrelliera di tubi di acciaio di 15 centimetri. Le tenaglie dei tubi penzolavano dalle loro catene. Il foro trivellato era vuoto, coperto unicamente da un coperchio di acciaio che lui sollevò senza fatica. Guardò giù nel buio del tubo fisso. Alcuni di questi fori, lo sapeva, penetravano fino a 10 km nella crosta terrestre, molto più in profondità di quanto non sia alto l'Everest. Si allungò a prendere il primo oggetto a portata di mano, una chiave stringitubo di 60 cm, e la lasciò cadere nell'apertura. Appoggiò l'orecchio al foro e ascoltò. La caduta della chiave produsse un sibilo che andava spegnendosi mentre diventava più acuto verso l'intensità di un urlo. Immaginò involontariamente una creatura viva che cadeva in quel terribile tubo, diciamo a piedi in avanti, e che guarda in su verso quel punto di luce sempre più piccolo che significa speranza, aria, spazio, vita. Non sentì o non riuscì a sentire la chiave toccare il fondo. Haydak guardò intorno alla ricerca di altri missili. Trovò chiavi, catene, scalpelli di perforazione, raccordi, dadi, bulloni, palanchini, tubi rotti e acciaio per perforatrici, e li lasciò tutti ad uno cadere giù nel buco nero. Tutto quello che riuscì a trovare in giro lo fece fischiare giù per il tubo fisso. Prese perfino una delle tenaglie per tubi e cercò di forzare un'asta di perforazione nel tubo fisso, ma questo era uno sforzo troppo grande per un uomo solo. Ci voleva il deviatore, e sulla piccola passerella due metri e mezzo più sopra per manovrarne l'altra estremità. Stanco di lanciare cose, rivolse la sua attenzione ai grandi motori diesel Gardner Denver che muovevano l'unità di perforazione. Aprì, forzandola, la cassetta degli attrezzi del perforatore e trovò la chiave che cercava. Si infilò strisciando sulla schiena sotto i motori e svitò in tutti il tappo della coppa dell'olio, lasciando fuoriuscire il lubrificante. Poi avviò i motori e li lasciò girare. A mani nude non poteva fare molto di più. Se avesse avuto della termite, avrebbe potuto dare alle fiamme le gambe della torre di perforazione. Se avesse avuto un po' di esplosivo, avrebbe potuto farla saltare. Non aveva né l'una né l'altra. Haydak allora lasciò la sua firma sulla sabbia. Nemo. Beve un sorso d'acqua dalla sua borraccia e si guardò intorno. Il deserto appariva privo di presenza umana, eccetto la sua, in mezzo alla salvia. Si sentiva il canto stridulo del passero dalla gola nera. Il bordo del sole lampeggiava sopra il margine dell'Holland Rock, terra santa, che è precisamente la ragione per la quale aveva dovuto fare il lavoro che aveva precisamente fatto, perché qualcuno, porco Dio, lo doveva pur fare. Si avviò verso il camion e le pareti rocciose, piegando verso la strada che aveva preso Smith. i motori della torre di perforazione gemettero alle sue spalle, moribondi. Mentre camminava, strappava ramoscelli di salvia e schiacciava tra le dita le foglie polverose azzurro, argento e grigio verde. Apprezzava la fragranza aromatica della salvia, quell'odore raro e inquietante che gli evocava di per sé tutto il mondo sud-occidentale di canyon, mesas e fianchi montuosi di luce solare intensa e vedute visionarie. Ok, grand'uomo, genio incompreso, ecco la pista per i fuoristrada. Adesso passiamo per la vagina del canyon, entriamo nel ventre del plateau. Ma dove si è cacciato quello stronzone di Seldon Smith? La risposta si fece attendere soltanto un'altra curva. Il geofono in coda a una fila di geofoni lunga mezzo miglio, proprietà della Standard Oil della California, giaceva tra la polvere e le pietre. Li raccattò mentre camminava, seguendo la fila di un boschetto di pini non esattamente rigogliosi fino al camion. Non c'era nessuno, ma l'aroma di caffè da cowboy, con la sua ricca essenza amarognola, l'odore del bacon sfrigolante, rivelarono la posizione di Smith. «Hai dimenticato qualcosa», disse Haydak, trascinando il gigantesco intrico di cavo e geofono nel bivacco. Smith si alzò dal fuoco. «E Cristo santo!» Il bacon sfriggeva, il caffè fumava. «Non ci ho pensato proprio», disse. Infilarono la roba sotto la sporgenza di un masso nel deposito alluvionale sottostante, dove la successiva ondata di primavera avrebbe seppellito tutto sotto tonnellate di sabbia e pietrisco. Finita la colazione, non sentendosi ancora al riparo dall'essere scoperti e interrogati, raggiunsero con il furgone la sommità del plateau, un ondulato terreno boschivo di pini gialli e querce. Si staccarono dalla via principale imboccando una stradina laterale senza via d'uscita, cancellando le loro tracce con ramazza e rami fronzuti, e si sdraiarono al sole su aghi di pino, indifferenti alle formiche indaffarate, agli scoiattoli che grattavano, alle ghiandaie crestate, alle galassie di moscerini che danzavano tra i raggi solari, e dormirono il sonno dei giusti. He was working a car wash. Stole money and burned the whole thing down for the mafia. Got paid real good. Next time I saw Cole, he was working for the circus. Used to get drunk and beat up some midgets. It was Cole. He said, "You'd never believe the things I've seen and done." That was Cole. He told me, "You'd never believe the things I've seen and done." That was Cole. Last time I saw Cole, picture was everywhere. In movies, in magazines, posing with supermodels and presidents and kings and queens. It was Cole. Last time I saw Cole, he was in the Pope's entourage, traveling through town. Kissed his hand and everything, I couldn't believe it, that was Cole. He told me on the phone, "You wouldn't believe the things I've seen and done." That was Cole. He said, "Harley, you wouldn't believe the things I've seen and done." That was Cole. Everybody from the neighborhood, they couldn't believe it. About Cole and everything. His mother still lived in that old shack on Jones Street. That was Cole. said, you'd never believe the things I've seen and done. Last time I saw Cole, he was in town. He looked scared and haggard, drunk or something. He said, come to my hotel room, please. I met him there, opened the door. He was in the bathroom, his body riddled with bullets. I heard somebody coming up the stairs, so I ran. I didn't hear anything on the news or in the newspapers. I called his office. Secretary told me he had to go back to Panama for business. Oh, that was cold. That was cold. To this day, I've never seen Cole again. I know his fate. I shall not say a word about this to anyone, for I fear for my own life. What he saw and what he did, I will not know. But I know that was cold. Cold. E questi erano Dead Bolt con il brano Last Time I Saw Cole. Dopo la lettura di Edward Debbie con i Sabotatori. E prima ancora c'era stata l'usuale, oramai diventa usuale, caduta di connessione che ci ha bloccato per un attimo. Ovviamente io lo ricordo, chi ascolta la radio, se all'improvviso non sente più nulla, basta riaggiornare o aspettare un minutino, il tempo aspettate. Noi ce ne accorgiamo e riavviamo il tutto. Ora ripassiamo alla controinformazione, perché praticamente ho ricevuto un testo del compagno Fausto Ricchi. Fausto Ricchi è il compagno che ha gli arresti domiciliari per aver tentato nel giugno 2013 a Porta Palazzo a Torino, insieme ad altri due compagni che sono stati colpiti da divieto di dimora, l'arresto, hanno cercato di evitare l'arresto di un ragazzo che aveva rubato una bicicletta, un ragazzo immigrato. Allora, il testo di Fausto è per titolo L'unico verdetto è vendicarsi. La solidarietà sembra diventata una parola svuotata, predicata da persone ostentanti la libertà individuale a seguito della predicazione di un'idea, quella anarchica. Un movimento attaccato alla flebo della povertà d'animo in cui la macchina sociale l'ha prodotto e rinchiuso. Questa considerazione verrà più facilmente colta da chi con quella società non ha più niente a che fare, perché non vuole averci niente a che fare. Naturalmente non voglio discutere della sussistenza e della sopravvivenza in cui ogni essere vivente deve districarsi, perché i maghi e i preti delle parole ne farebbero avido bottino per le loro speculazioni sociali, sottraendosi a un confronto diretto e sincero con le loro paure che ben si nascondono dietro lo spettro della massa popolare e che di conseguenza precludono ogni sviluppo di prospettiva successiva a superamento della suddetta. Quando poi questa pietosa solidarietà implode nel totale fallimento con la pretesa di avere uno status sociale in quanto si crede di svolgere un lavoro importante e rilevante, i piagnistei si sprecano e la frustrazione dilaga. Basta guardare bene poi per capire che più che una torre d'avorio con cui porsi come avanguardia assomiglia solamente a un castello di stuzzicadenti. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La solidarietà non può essere che una vendetta, perché significa un legame tra due o più individui, un legame che può che se viene spezzato genera un'esplosione e non implosione nella paura del crollo del nostro castello, perché il castello non ha alcun significato se non quello che gli attribuiamo noi individualmente, come facciamo con un'autorità esterna. Sono accusato della tentata rapina della pistola di un agente di polizia. episodio per il quale dal 17 ottobre 2013 sono detenuto negli arresti domiciliari nel modenese. Per quanto stia vivendo questa prigionia, non so affermare cosa sia peggio tra la, repressione e la delusione amplificata da fattori tanto semplici quanto subdoli, come lo sfruttamento dei rapporti d'affinità successivo alla frattura tra i percorsi di lotta seguiti insieme ad altri compagni prima e dopo l'arresto, creando una spaccatura netta tra ciò che ci considera mero sostegno e solidarietà rivoluzionaria. Io non voglio questa millantata solidarietà, ricevuta o mancata che sia, oggi più che mai diventata parvenza del cancro dell'intero movimento anarchico. Ciò che voglio sono i compagni a cui il mio pensiero si rimanda, nel tempo scandito di tanto in tanto dalle loro azioni che mi raggiungono e mi fanno stringere i pugni, sperando poi di poterli cambiare un giorno o l'altro, sapendo che non importa la distanza, sai di poter affidare quel pensiero di rivalsa a tutti i più probabili e improbabili compagni là fuori. Ciò che voglio sono quelle strane creature infinitamente diverse da loro, ma che considero ugualmente fratelli e sorelle in questa guerra, la cui diversità non sono difetti ma peculiarità. In tempi più sereni il riso e lo scherzo segnavano i primi passi della via giusta, ma altrettanto ci si riconosce con quelle stesse creature a combattere insieme nel buio e nell'ombra. Ciò che voglio sono quelle strane creature, ognuna con le proprie possibilità e ognuna con i propri ritmi, dettati dalle infinite connotazioni personali e dagli infiniti fattori psicologici, fisici e momentanei. Ritrovandosi poi nei momenti pericolosi in cui escono le persone per come sono veramente e dimostrare al nostro nemico che non potrà mai isolare coloro che costantemente cerca di reprimere e dividere. Io voglio tutto, dichiarando guerra contro ciò che distrugge la vita e tutti coloro che sostengono qualsiasi muro di una prigione, preludendo conflitti. Solo tentennando di estendere dappertutto lo stato di conflittualità permanente possiamo trovare la liberazione che cerchiamo. Liberazione dal cemento e dal denaro. Se questo non è il senso del risultato che bisogna ottenere, mi domando cosa vuol dire distruggere un palazzo. Mi domando cosa vuol dire far esplodere un Bagnomat. Mi domando cosa vogliono dire tutti gli ammassi teorici di parole che si continuano impassibilmente ad accumulare, in attesa di chissà quale propizio utilizzo o momento migliore in cui soddisfarle. Dare fuoco a tutte le prigioni, così come incendiare tutte le parole pensate e non dette, così come incendiare noi stessi di passione. La miglior difesa è l'attacco. Fausto Ricci, AKSL. E questo è il testo del compagno che si fa sentire dopo circa 7 mesi di arresti domiciliari. Per aver salvato un furto di bicicletta. Il cinema italiano ancora si incensa, ladri di biciclette invece, vabbè. Quello era particolare perché andava di un immigrato, quindi ovviamente gli sviti, specialmente a Torino, conosco bene la città e quindi penso, immagino cosa voglia significare in quella città un furto di bicicletta avvenuto da un immigrato. Allora, ora ci ascoltiamo un brano di Yogo Dead di Aftertaste e poi dopo si ritorna qui con una nuova parte dell'ultimo capitolo che stavamo leggendo dei Sabotatori di Edward Ebbing. Nothing. to begin. E si alzarono quando il sole segnava mezzogiorno e mangiarono formaggio coi vermi e cracker e innaffiarono l'esofago con della buona birra a prezzi popolari, non Coors. Di nuovo sulla strada guidando attraverso i boschi e masticando mele per dessert. Haidak, che non era mai stato prima sul Kaiparowitz Plateau, e che lo aveva visto soltanto da sotto e attraverso vari sistemi di canyon, fu sorpreso dal constatare che isola di terra vasta, piena di alberi, flagrante e adorabile fosse il plateau, e tuttavia protetto unicamente da quella canna flessibile, quella paglia cedevole, quel ramoscello tremante del Dipartimento degli Interni USA, è insidiato da numerosi consorzi di compagnie petrolifere, compagnie elettriche, compagnie carbonifere, costruttori di strade e case, e da lottizzatori. Il Kaiparowitz Plateau, come la Black Mesa, così come gli altipiani del Wyoming e del Montana, fronteggiava lo stesso attacco che aveva devastato l'Appalachia. Andiamo avanti. Le nuvole scorrevano in frasi e paragrafi come messaggi incomprensibili di sconvolgente importanza, su, in alto, sopra le catene coperte di alberi, sopra pareti mai scalate, oltre i campi disabitati delle Mesas solitarie, seguite dalle loro fedeli ombre, che scorrevano adattandosi senza sforzo alle fenditure, ai crepacci, alle fratture e alle balze sulla pelle langrenzita della terra dello Utah. Siamo ancora nello Utah. Intuizione corretta, amico mio. E beh, allora facciamoci un'altra birra, ma non prima di aver superato la linea che segna l'inizio dell'Arizona. La strada si aggrappava alla spina della catena montuosa, snodandosi a serpentina verso i fumi azzurri delle Smoky Mountains, dove i depositi di carbone incendiati dall'illuminazione di qualche interminabile pomeriggio estivo di 10.000 anni prima covavano sotto la superficie delle spalle della montagna. Lì sembrava che non li stesse inseguendo nessuno. Ma perché avrebbero dovuto? Non avevano fatto nulla di sbagliato finora. Avevano fatto tutto giusto, fatto bene. Giù, sulle distese dove crescevano solamente alimo, punzia e bistorta, si imbatterono in una piccola mandra di vacche impudenti che procedevano spensierate su per le terre più alte, carne con zoccoli in cerca di rogne, quelle che Smith amava definire le cugine sceme del Wapiti, considerandole con soddisfazione un'affidabile scorta di carne all'aria aperta per i tempi grami. Come facevano a sopravvivere le bestie su quelle terre incolte? O erano quelle bestie che avevano creato le terre incolte? Haydock e Smith si trastullarono diverse volte a tirar fuori le vecchie pinze e a tagliare tutte le recensioni che vedevano. A tagliare le recensioni non sbagli mai, diceva Smith, soprattutto le recensioni per le pecore, clank, ma anche quelle per le vacche, tutte le recensioni. Chi ha inventato il filo spinato? Chiese Haydock. Ma lo so questo, l'ha inventato un tizio che si chiamava J.F. Gilden e tirò fuori il suo brevetto nel lontano 1874. Un successo immediato fu quel filo spinato. Adesso le antilopi morivano a migliaia, le pecore delle montagne perivano a centinaia ogni inverno dall'Alberta giù fino all'Arizona, perché le recinzioni tagliavano ogni via di fuga dalle tempeste di neve e dalla scarsità di cibo. E anche i coyote, le aquile reali e i soldati contadini sui rotoli di filo spinato, vittime della stessa gratuita malvagità che prospera in ogni angolo del mondo, impiccati sull'acciaio spinato e infettivo. A tagliare le recinzioni non sbagli mai, ripeteva Smith e anche noi, sentendo crescere le eccitazioni per l'opera svolta. Tagliare sempre le recinzioni, questa è la legge ad ovest del centesimo meridiano, ma anche più sopra. A est di questo non conta più nulla, laggiù comunque è tutto perduto, ma a ovest tagliare le recinzioni. Arrivarono a Glen Canyon, 45 abitanti, cani compresi. L'unico negozio della città era chiuso e il promettente cartello, appeso a un chiodo arrugginito sullo stipite della porta, dondolava con il vento. Presto sarebbe caduto. Rimanevano aperti solamente il caffè e la stazione di rifornimento. Smith e Haydock si fermarono a fare benzina. «Quando finiranno di costruire quella centrale elettrica da 40 milioni di dollari, nonno?» domandò Haydock al vecchio addetto alla pompa, Texaco, 55 senza gallone, un furto a metà prezzo. Il vecchio, con la mascella floscia, lo sguardo flemmatico, lo guardò con diffidenza. La barba ispida, piena di vita selvaggia di Haydock, i suoi capelli arruffati, il sombrero di cuoio ingrassato, quanto basta per suscitare sospetto in chiunque. «Ma non si sa ancora bene», rispose il vecchio. «Quei dannati ficcanaso ambientalisti mandano le cose per le lunghe. Perché non vi lasciano mandare in malora la qualità della fottutissima aria qui intorno? E questo è il problema, vero?» «Ma sì, è vero, perché sono dei figli di puttana ignoranti, perché qui abbiamo più aria di quanto un uomo qualunque possa respirare», e agitò un braccio di pelle e ossa al cielo. «Guarda là, c'è tanta aria che il tuo uccellino si perderebbe, quanta! Io voglio fare il pieno». Il vecchio indossava l'uniforme ufficiale della Texaco, a righini verdi e bianchi, originale. L'ultima volta che era stata lavata doveva essere durante le copiose precipitazioni dell'agosto 1972. Sulla manica campeggiava la stella rossa della compagnia texana e sul taschino della camicia, con del cordino rosso, c'era il nome J. Calvin Garn. quella iniziale nasconde sempre un babione. Gli ampi pantaloni gli calzavano larghi e sformati laddove abitualmente troveresti le chiappe, se mai le stessi cercando. Calvin sembrava non averle, un vecchio amareggiato, e non c'era da stupirsi. Senza fondoschiena. Affidare la tua auto all'uomo con la stella, recitava lo slogan. Ma solo se non ha perso il culo per strada. Ah, certo, ma forse dovreste salvarne un po' per tutti quelli che là a est in California sono costretti a respirare l'aria di città. Dell'aria, beh, io di questo non so niente, disse il vecchio. I suoi occhi catarrosi spurgano per la continua esposizione ai vapori della benzina. Questa è l'aria nostra, io credo che nessuno può sapere meglio di noi che cosa farne. Non ci piace che quegli estranei del Sahara Club vengano qui a insegnarci cosa ci dobbiamo fare con l'aria nostra. Ok, ok, brother. Ma prova a guardarla in questo modo. Tenete pulita metà della vostra fottuta area e potrete venderla a quelli che vivono in città a fiasti come acqua da bere di pura sorgente. Ah, questo ci abbiamo già pensato, ma non si cavano abbastanza soldi. Beh, potreste piazzargli dei contatori sulle marmitte appena superano la linea dello Stato. Ah, bravo, abbiamo ragionato anche su questo, ma non avevamo abbastanza soldi. Ci sono i costi di trasporto e di tutti i permessi che devi comprare nel dannato Stato. Faccio anche una controllatina all'olio. E finalmente ripartirono diretti a Wewip Marina, attraversando il confine in Arizona, dove Hydak aveva mollato la sua Jeep alcune settimane prima. Adesso decise che la voleva, e voleva soprattutto gli attrezzi che c'erano al suo interno. E dopo averla messa in moto, si accodò a Smith in direzione del ponte sul Canyon Bridge. Parcheggiarono, scesero e camminarono fino al centro del ponte per pregare. Ok, Dio cane, sono tornato, cominciò Seldon Sin inginocchiato, la testa china. Sono ancora io, Smith. E vedo che non hai ancora fatto nulla per questa diga. Ora, tu sai bene quanto me che se quei dannati personaggi che ci governano decidono di riempire d'acqua la diga, questa allagherà i canyon, soffocherà altri alberi, affogherà altri cervi e, più in generale, rovinerà le aree qui intorno, perché quell'acqua tornerà precisa indietro sotto lo stesso Rainbow Bridge se lascerai riempire la diga a quei figli di puttana. Glielo lascerai fare, mio caro Dio cane. Alcuni turisti si fermarono a guardare Smith. Uno sollevò una cinepresa. Hydak, che montava la guardia, mise una mano sul manico del suo coltello inguainato e li fissò a sua volta. E quelli misero giù la cinepresa e si allontanarono. La ranger non si fece più vedere. Che mi dici? Dio, mio Dio cane, chiese Smith. Si fermò, sollevò un occhio al cielo dove una processione di nuvole in formazione stabile come un'armata di galeoni veleggiava verso est, sospinta dal vento, allontanandosi dai raggi del sole dell'ovest verso la notte incombente. Di nuovo la risposta si fece attendere e Smith chinò il capo e ricominciò. Con le sue suppliche, inginocchiato sul cemento gelido, le guglie delle sue mani scure puntate verso il paradiso. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, my lord, signore, è il piccolo terremoto di precisione. Giusto un colpetto chirurgico, puoi farlo anche adesso, in questo istante, di me e di George. Non ti preoccupare, andremo giù con il ponte e con tutti questi sconosciuti innocenti venuti da ogni stato dell'Unione per ammirare questa grande opera dell'uomo. Allora, che ne dici? La fai questa scossa di precisione? Nessuna risposta, nessuna che occhio, orecchio o altro senso potesse percepire. Dopo un altro minuto, Smith interruppe il suo inutile mormorio mormone e si alzò in piedi. Si sporse dal parapetto del ponte di fianco ad Aida, che rimirò la concava immensità della faccia della diga. Dopo un periodo di meditazione, Hydak parlò. Vedi, Seldon, disse, Se solo potessimo raggiungere il cuore di questa stronza diga. Questa diga non ha cuore. Ok, se potessimo raggiungere allora le sue viscere, se mi tagliassi i capelli e mi sbarbassi, mi infilassi un bell'abito con la cravatta, mi munissi di un bel regolo calcolatore e di un casco giallo nuovo di zecca di quelli che portano tutti gli ingegneri della bonifica, magari, dico magari, potrei presentarmi nel centro di controllo con una borsa a tracolla piena di buona merda, TNT o qualcosa. Non puoi entrare là, George, ci sono le guardie, tengono tutte le porte chiuse, devi avere il badge, devono conoscerti, le regole di sicurezza sono molto rigide e anche se mai riuscissi ad arrivare lì dentro, una piccola borsa piena di dinamite non farebbe un granché. Ma io sto pensando al centro di controllo e al modo in cui arrivarci. Da lì potrei aprire i canali di diversione e far uscire l'acqua, tutta l'acqua dal serbatoio. Poi faccio saltare i controlli così loro non sono più in grado di chiuderli. Smith sorrise tristemente. È un'idea mica male, George, ma non basta. Lo riempirebbero di nuovo. Quello che ci servirebbe veramente sarebbero 3 o 4 houseboat, delle chiatte, grandi come aerei, di quelle che usano i miliardari, lunghe 20 metri. Le riempiamo di fertilizzante, carburante e diesel, poi scendiamo dal lago verso la diga, piano e molto comodi, alla luce del giorno con la tua fidanzata Miss Abzug a girare sul ponte con il suo striminzito bikini nero. Vai così, questa è l'idea, così sembrerebbe naturale. Poi ci avviciniamo facendo finta di niente a quel cavo di sbarramento laggiù. Se adesso guardi, lo vedi anche da qui, quel cavo che dovrebbe tenere lontane le imbarcazioni dalla diga, e lo tagliamo alla luce del giorno. Come? Non lo so. Maledizione, sei tu il berretto verde. Tagliare quel cavo è compito tuo. Poi puntiamo con queste grandi imbarcazioni la diga e una volta arrivati alla distanza giusta le facciamo affondare in modo che vadano a picco verso la base della diga e sott'acqua continuiamo a muoverci per farle appoggiare contro il cemento. E noi che fine facciamo? Che fine fanno Bonnie e il suo striminzito bikini nero? Ma noi saremo impegnati con le pagaie delle nostre canoe per tornare a riva e intanto srotoliamo il cavo di collegamento al detonatore. In pieno giorno, facciamolo alle 2 del mattino in una notte tempestosa, così arriviamo a riva, colleghiamo il filo da tutte le houseboat a un detonatore elettrico e facciamo esplodere la carica. E la carica è compressa da 1 milione di tonnellate di acqua, giusto, George? Arrivederci e addio, Glen Canyon Dam. Bentornati al Glen Canyon senza dammi, al vecchio fiume Colorado. Bella, capitano Smith. Grazie, George. Non funzionerà, eh? No, probabilmente no. E questi erano Radio 4 con il brano Everything is in Questions. Ora si ripassa all'ultima notizia di conto informazione per la giornata e poi dopo l'ultima parte della lettura per quanto riguarda i sabotatori di Edward Debbie. Allora, l'ultima notizia ci arriva dal Cile, dove è stata bruciata un'auto degli sbirri e alcuni di loro anche. Chi ha visto il sito di redazione come immagine iniziale può farsi un'idea. Allora, leggiamo il testo dei compagni che per l'appunto fanno sapere di ciò che è avvenuto. L'8 maggio c'è stata la marcia contro la delinquenza al Parco Almagro e mentre l'evento socialdemocratico si svolgeva sono iniziati dei disordini con barricati e scontri contro la FFEE da parte di individui con il volto coperto. Ricordiamo che la FFEE è la sbirraglia antisommossa cilena. Sapendo che era appunto che era giunto il momento, iniziamo a rompere l'ordine e la normalità imperante. Prendendo carburante, notando che un'auto era parcheggiata di fuori del territorio della polizia temporaneamente e uniti alla folla che prendeva a sassate la vettura, decidemmo di aumentare il caos contro la civilizzazione e i suoi trasporti di schiavi moderni. Con l'auto in fiamme arrivarono i bastardi della polizia che momentaneamente dispersero i manifestanti, ma l'avanzata del contingente degli sbirri fu fermato dai diversi oggetti e ritenemmo necessario di lanciare prima una e poi due bombe incendiarie dirette contro i difensori dell'ordine, provocando alcuni feriti e un capitano con lesioni gravi. Non un passo indietro contro i nemici né davanti a tutto l'esistente. Non desideriamo sovvertire l'ordine, ma desideriamo distruggerlo e demolire le fondamenta della civilizzazione. Abbiamo attaccato il concetto cittadino che hanno cercato di inculcarci e non vogliamo alcun futuro con la marmaglia schifosa. Ci dichiariamo nemici della polizia, degli impresari, della sottomissione, della città e tutti i civilizzati che sostengono o difendono questa realtà soffocante imposta. Per la distruzione dell'esistente, guerra al capitale, libertà per Sol, Adriano, Gianluca, Alfredo, Nicola e tutti i prigionieri in guerra nel mondo, fuoco alle sbarre della passività che vogliono venderci. In memoria di Angri, che sarebbe Sebastian, e tutti gli animali morti, umani e non, per la schifosa società e i suoi sostenitori. Manate di ciò che anarchico nihilista. E questo è il testo tradotto da sottoscritto. Poi sotto il testo, se andate avanti, scorrete giù la pagina, trovate anche le foto degli scontri, sbirri che vanno a fuoco. Insomma, comunque è stata una bella giornata per i compagni cileni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Vitalik con il brano Stamina e poi dopo si ritorna qui con l'ultimo pezzo del capitolo di Edward Bay, I Sabotatori. Fight, I show you right. On your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plight, I give you light. On my beats, on my treats. Stamp and stomping, stamping off. Stamp and stomping, stamping off. Stamping off. Something is late. On my flight, I give you light. In your flight, I show you light. ladies and gentlemen, crank it up. Tornarono ai loro veicoli e attaccarono la collina su fino al supermercato Big Pig, dove si rifornirono di scorte. Fatto questo e sistemate nelle ghiacciaie carni e verdure, diedero un'occhiata in giro per farsi un goccio rapido al bar più vicino, sentendosi amichevoli, disponibili e pieni di energia dentro al bar. Non c'era nessuno, eccetto operai edili con i caschetti, alcuni autisti di camion con la maglietta sudata e un certo numero di cowboy con i sombreri incrostati di sale e non wasp ma messicani, come tutti i cowboy. Hydak mandò giù il primo bicchiere di Jim Beam e lo ammortizzò con un boccale di Coors, la birra cara. Asciugandosi la barba si voltò verso i presenti, la schiena rivolta al bancone e il suo vecchio amico Seldon Sin al fianco a tenere sotto controllo il lato dall'altra parte. E quando il jukebox Tennessee Ernie Ford, Engelbert Humperdinck, Hanks Williams Jr., Merle Haggard, Johnny Cash, Johnny Paycheck e altri rimase in silenzio per un istante, Hydak parlò rivolgendosi ai clienti del bar ad alta voce. Salve, disse, mi chiamo Hydak e sono un hippie. Smith si irrigidì fissando lo specchio dietro al bancone. Alcuni dei cowboys, camionisti e operai edili diedero un'occhiata ad Hydak, poi tornarono alle loro conversazioni. Hydak ordinò un secondo whisky con birra, lo beve, e quando il jukebox si prese un altro intervallo tra un disco e l'altro parlò di nuovo chiaramente. Mi chiamo Hydak, disse, e sono una checca, un finocchio, un frocio. D'estate vado in giro a piedi nudi, mia madre è mantenuta dai servizi sociali e voglio dirvi che io sono contento di essere qui, perché se non fosse per uomini come voi sarei costretto a lavorare per vivere. Tutto quel che faccio io è leggere libri e riviste porno, spacciare droga e scoparmi le ragazzine. Smith si guardò attorno cercando l'uscita più vicina. Hydak aspettò. Ci furono alcuni sorrisi, alcune osservazioni tranquille, ma nessuna risposta approfondita, sincera o di qualche significato. Camionisti, cowboys, operai edili e persino la cameriera del bar, ogni piccolo gruppo impegnato nei suoi dialoghi privati, lo ignorarono. Lui, George Washington, Hydak, checca, hippie, logorroica, Ero sergente nei berretti verdi in Vietnam, spiegò, e posso spaccare il culo di qualunque succhiacazzi presente in questa stanza. Ah. Questo annuncio produsse alcuni secondi di rispettoso silenzio e alcune occhiate gelide. Haidak restituì le occhiate, pronto a partire, ma il jukebox riattaccò interrompendo il discorso. Smith lo prese per un braccio. Ok, Giorgio, sei andato bene, benissimo. Adesso però dai, usciamo, è anche un po' in fretta. Beh, merda! Si lamentò Haidak. Prima pisciamo! E si voltò, portando lo sguardo sul piccolo cartello con scritto Tori, vicino alla porta delle vacche. Trovò il pomello e si barricò nel cubicolo di luce urica. L'urinale colorato dai remi sbadigliava davanti a lui. Com'era sonnacchioso! Con una fonte di acqua santa e pisciando con vigore. Oh! Che rilassamento estatico, che scaricamento mistico. Pisciando con vigore lesse l'etichetta sulla macchina distributrice automatica da due sensi inchiodata alla parete. Migliora la tua vita personale, imbarcati in una nuova avventura con Samoa, il nuovo profilattico esotico a colori dei mari del sud. Tramonto rosso, mezzanotte nera, alba dorata, fascisti. Mattino azzurro, siesta verde, nuova libertà e piacere, lubrificazione speciale e non scolora. Aiuta a tenere lontane le malattie venere. Fuori, nella luce del sole calante, attraverso il caldo rovente che galleggiava in piani sopra calcestruzzo e asfalto, Haidak protestò di nuovo. Smith era più comprensivo. È la rivoluzione sessuale, George, spiegò. Alla fine è arrivata anche qui a Page, Arizona. Adesso persino i camionisti e gli operai possono scopare tutte le volte che lo desiderano. Beh, però merda. Beh, adesso lo possono scopare anche i cowboy. Merda. Questa è la tua macchina, George, la Jeep. Non entrare dal finestrino, apri la portiera. Ma la portiera non si apre. E si arrampicò dentro il finestrino, poi sporse fuori la sua testa irsuta. Eppure tutta questa storia non mi piace, disse. È così che vanno le cose, George. Non hanno più voglia di lottare. Stanno tutti risparmiando le energie per il turno di notte. Davvero? Beh, merda. In che modo si esce da qui? Beh, seguimi. Forse è di questo che ho bisogno di seguirti. Beh, la vedremo domani, George, magari. La possiamo portare a nuotare in qualche stagno navaco con il suo bikini nero. Striminzito Habzug, a chi interessa? Dice Haidak, filosofo e bugiardo. Si strinsero ancora una volta le mani, stretta da montanari, mani pesanti su polsi pelosi in reciproca unione, sovrapposizione integrata di ossa, tendini, vene e muscoli. Poi via, sulla strada, Haidak che fa compiere un giro completo sulla sua macchina nel parcheggio del supermercato prima di decidere la direzione da prendere e lanciarsi verso sud. Tito Smith, con un intelligente stridore di gomme e le eleganti strisce bruciate dell'asfalto arroventato. Per uscire dalla città passarono per Jesus Row, la via Mezzaluna, dove le 13 chiese di Page sono allineate in un ecumenico, tutte cristiane ovviamente, allineate in un ecumenico guancia a guancia, non interrotto da alcun ostacolo più secolare delle macchine abbandonate nei parcheggi svuotati, dove navajos, ubriachi e emarginati giacciono seminascosti tra erbacce e bottiglie di vino immancabilmente rotte. Page, Arizona, 13 chiese, 4 bar. Qualunque città abbia più chiese che bar, è una città che ha dei problemi e anche seri. Qualunque città è una città che chiede di avere problemi, e stanno addirittura tentando di cavar fuori dei cristiani dagli indiani, dai nativi, come si dice oggi, come se gli indiani non fossero già di per loro abbastanza cattivi. A 30 km dalla città si staccarono dall'autostrada per accamparsi per la notte e cucinare la loro cena nel fuoco pulito e appassionato di tizzoni di ginepro, soli, lassù, nella distesa dorata del deserto navajo, lontani da case o capanne indiane, mangiavano i loro fagioli sotto il chiarore ascendente che abbracciava l'intera volta celeste di uno dei migliori tramonti che Dio cane avesse mai regalato all'Arizona. L'indomani, a Betatakin per l'appuntamento con Doc Service e Bonnie Abzug, poi sulla Black Mesa per scambiare quattro chiacchiere con la Peabody Coal Company, la Black Mesa e Lake Powell Railroad autostrada, e poi preferirono non speculare, pisciarono, ruttarono, scorreggiarono, si grattarono, grugnirono, si fregarono i denti, srotolarono i loro sacchi sul terreno sabbioso e ci si infilarono per la notte. Smith fu svegliato dopo mezzanotte mentre Scorpione scendeva e Orione saliva, e fu svegliato da dei lamentosi mormorii provenienti dal sacco a pelo vicino. Sollevò la testa scrutando nell'oscurità e vide Hydak agitarsi convulsamente, annaspare, lo sentì urlare: no, no, no, oh George, no, George, no, no. Intrappolato in un incubo, Hydak tremava, gemeva e si agitava nel suo lurido sacco a mummia dell'esercito, berretti verdi. Smith, che non poteva raggiungerlo senza scivolare fuori dal proprio sacco a pelo, lanciò uno stivale colpendo Hydak sulla spalla. Il lamento si interruppe all'istante. Adattati gli occhi alla luce fioca, Smith vide il riflesso opaco sulla canna della 357 Magnum di Hydak, estratta in un battibaleno dal sacco a pelo, la bocca rivolta verso di lui alla ricerca di un obiettivo. George, sono io. Chi sei? Io, Smith. Chi? Per l'amor di Dio, George, svegliati. Hydak restò in silenzio un momento. I'm awake. Sono sveglio. Stai avendo un incubo. Lo so. Metti giù quel cannone maledetto. Qualcuno ha lanciato qualcosa. Sono stato io, cercavo di svegliarti. Ok, va bene. Hydak abbassò la pistola. Pensavo di farti un piacere, disse Smith. Beh, già, cazzo. Dai, rimettiamoci a dormire, eh? Sì. Giusto. Solo una cosa, Seldon. Non svegliarmi mai più in quel modo. Perché? Perché non è sicuro. Allora come dovrei svegliarti? George Washington Hydak non rispose subito. Allora, qual è il modo sicuro? Chiese Smith. Hydak ci pensò sopra un po'. Non ci sono modi sicuri. Scusa? Non c'è nessun cazzo di modo sicuro per svegliarmi. Beh, ok, disse Smith. Allora, la prossima volta ti sveglierò sfondandoti la testa con una pietra. Hydak rifletté. Sì, probabilmente. È l'unico modo sicuro di svegliarmi. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione. Letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org.